Non appena fummo soli e imboccammo il corridoio, Albertin mi disse: «Cosa avete contro di me?» La mia durezza verso di lei mi era stata a mia volta penosa. Si era trattato da parte mia solo di un'inconscia astuzia intesa a portare la mia amica a questo atteggiamento di timore e di supplica nei miei confronti, atteggiamento che mi avrebbe permesso di interrogarla e forse di scoprire quale ipotesi fra le due che da tempo venivo formulando sul suo conto rispondesse a verità. Sta di fatto che alla sua domanda mi sentii di colpo felice, come chi raggiunge uno scopo lungamente perseguito. Prima di risponderle, la condussi sino alla mia porta. Questa, schiudendosi, lasciò fluire la luce rosata che riempiva la camera e trasformava la mussola bianca delle tende tese contro la sera in lampasso color aurora. Andai alla finestra. I gabbiani si erano di nuovo posati sulle onde, ma adesso erano rosa. Lo feci notare ad Albertin. «Non cambiate discorso», mi disse. «Siate franco come lo sono io». Mentii. Mi dichiarai costretto a farle una confessione preliminare, quella d'una grande passione che da qualche tempo nutrivo per Andrea. E gliela feci con una semplicità e una schiettezza degne del teatro, ma che nella vita abbiamo quasi soltanto per gli amori che non proviamo. Riprendendo con varianti la menzogna utilizzata con Gilbert prima dell'altro soggiorno a Balbec, mi spinsi, perché potesse meglio credermi quando le dicevo ora di non amarla, sino a lasciarmi sfuggire che in passato ero stato sul punto di innamorarmi di lei. Ma era trascorso troppo tempo. Ormai non era più per me che una buona amica, e se anche l'avessi voluto, non sarei più riuscito a provare nei suoi confronti sentimenti più appassionati. D'altronde, insistendo così con Albertin su queste proteste di disamore, non facevo, a causa di una circostanza in vista di uno scopo particolare, che rendere più sensibile, sottolineare con maggior forza il ritmo binario adottato dall'amore in chiunque, dubitando eccessivamente di se stesso, non riesce a credere né che una donna possa mai amarlo, né che lui stesso possa amarla veramente. Individui siffatti si conoscono abbastanza per sapere che accanto alle donne più diverse essi provavano le stesse speranze, le stesse angosce, inventavano gli stessi romanzi, pronunciavano le stesse parole, e dunque, per rendersi conto che i loro sentimenti, le loro azioni, non sono in un rapporto stretto e necessario con la donna amata, ma le passano accanto, la girano, la spruzzano come la marea che batte sul fianco delle scogliere. E il sentimento della propria instabilità rende ancora più acuto il loro sospetto che la donna, da cui vorrebbero tanto essere amati, non li ami. Se lei non è che un semplice accidente posto di fronte alla piena dei nostri desideri, perché mai il caso dovrebbe aver fatto sì che noi, proprio noi, fossimo l'oggetto dei suoi? E allora, pur avendo bisogno di manifestarle tutti quei sentimenti così diversi dai semplici sentimenti umani ispiratici dal nostro prossimo, quei sentimenti così particolari che sono i sentimenti amorosi, dopo aver fatto un passo avanti confessando a colei che amiamo la nostra tenerezza, le nostre speranze, subito, assaliti dal timore di dispiacerle, imbarazzati anche dal pensiero che le parole che le abbiamo rivolte non sono state forgiate espressamente per lei, ma ci sono servite, ci serviranno per altre, che se lei non ci ama non può capirci, che dunque abbiamo parlato con la mancanza di gusto, l'impudicizia del pedante che si rivolge a degli ignoranti con frasi sottili non adatte a loro. Questo timore, questa vergogna trascinano il controritmo, il riflusso, il bisogno, a costo in un primo tempo di indietreggiare, di ritirare bruscamente la simpatia appena confessata, di riprendere l'offensiva e riconquistare la stima, il dominio. Il doppio ritmo è avvertibile nelle diverse fasi di uno stesso amore, in tutte le fasi corrispondenti di amori similari, presso tutti coloro che sanno analizzarsi più di quanto non si stimino. Se tuttavia esso era un po' più accentuato del solito nel discorso che stavo facendo ad Albertine, era solo per consentirmi di passare più rapidamente e con maggiore energia al ritmo opposto, scandito dalla mia tenerezza. Come se Albertine dovesse faticare a credermi quando le spiegavo la mia impossibilità ad amarla di nuovo perché l'intervallo era stato troppo lungo, rafforzavo quella che definivo una bizzarria del mio carattere con esempi relativi a persone con le quali, per colpa loro o mia, avevo lasciato passare il momento ad amarle senza poi, per quanto l'avessi desiderato, riuscire più a recuperarlo. Sembrava così che volessi scusarmi con lei come di una scortesia, della mia incapacità di ricominciare ad amarla e nello stesso tempo che volessi cercare di fargliene capire le ragioni psicologiche come se fossero del tutto peculiari, soltanto mie. Ma giustificandomi in tal modo e diffondendomi sul caso di Gilbert, con la quale in effetti era stato rigorosamente vero ciò che, applicato ad Albertine, lo diventava così poco, non facevo che rendere le mie asserzioni tanto più plausibili quanto più fingevo di credere che quasi non lo fossero. Sentendo che Albertine apprezzava ciò che riteneva essere la mia franchezza e riconosceva nelle mie deduzioni la luce dell'evidenza, mi scusai della prima, dicendole che sapevo quanto si risulti sgradevoli quando si dice la verità e aggiungendo che questa, del resto, doveva riuscirle incomprensibile. Lei invece mi ringraziò della mia sincerità e aggiunse che per di più capiva perfettamente uno stato d'animo così frequente e naturale. Fatta da Albertine questa duplice confessione di un sentimento immaginario per André e di un'indifferenza nei suoi confronti che, perché apparisse affatto sincera e scevra d'esagerazione, la invitai incidentalmente e come per scrupolo di cortesia a non prendere troppo alla lettera, potei finalmente, senza timore che Albertine sospettasse un'ispirazione amorosa, parlare con una dolcezza che mi proibivo da tanto tempo e che mi parve deliziosa. Quasi l'accarezzavo, la mia confidente, parlandole della sua amica che amavo, mi venivano le lacrime agli occhi. Ma, venendo al dunque, le dissi infine che lei conosceva bene l'amore, le sue suscettibilità, le sue sofferenze, che forse, come mia amica di ormai vecchia data, avrebbe avuto a cuore di far cessare le grandi pene che mi procurava. Non direttamente, dal momento che non era lei che amavo, se mi permetteva di ripeterlo senza offendersi, ma indirettamente, colpendomi nel mio amore per André. Mi interruppi per guardare e mostrare ad Albertine un grande uccello solitario e frettoloso che lontano davanti a noi, sferzando l'aria col battito regolare delle ali, sorvolava velocemente la spiaggia, chiazzata qua e là di riflessi simili a brandelli strappati di carta rossa, attraversandola in tutta la lunghezza senza rallentare l'andatura, senza distogliere l'attenzione, senza deviare dalla sua strada, come un emissario che deve portare a chissà quale distanza un messaggio urgente e fondamentale. «Lui almeno va dritto allo scopo», mi disse Albertine con aria di rimprovero. «Parlate così perché non sapete quello che avrei voluto dirvi, ma è talmente difficile che preferisco rinunciarvi. Sono sicuro che vi offendereste e tutto ciò che otterrei sarebbe di perdere una buona amica senza per questo essere più felice con colei che amo d'amore. Ma se vi giuro che non mi offenderò», aveva un'espressione così dolce, così tristemente docile, come se aspettasse da me la felicità, che facevo fatica a trattenermi dal baciare con lo stesso tipo di piacere quasi che avrei provato baciando mia madre, quel volto nuovo che non somigliava più al musetto sveglio e colorito d'una gatta ribelle e perversa dal roseo nasino all'insù, ma sembrava, nella pienezza della sua malinconica prostrazione, fuso nella bontà, a larghe colate, appiattite e cadenti. staccandomi dal mio amore come da una follia cronica, priva di rapporti con lei, mettendomi al suo posto, mi commuovevo davanti a quella brava fanciulla abituata ad essere trattata con maniere gentili e leali, e che un buon amico, quale aveva creduto che io fossi per lei, ossessionava da settimane con persecuzioni arrivate adesso infine al loro culmine. Assumendo un punto di vista puramente umano, esterno a noi due, nel quale non trovava posto il mio amore geloso, provavo per Albertine una pietà profonda, che tuttavia lo sarebbe stata di meno se non l'avessi amata. Del resto, nell'oscillazione ritmata che va dalla dichiarazione al litigio, il mezzo più sicuro e più efficacemente funesto per formare, con movimenti opposti e successivi, un nodo destinato a non disfarsi più, a legarci indissolubilmente a qualcuno, a cosa serve distinguere ancora, dentro il movimento all'indietro che costituisce uno dei due elementi del ritmo, i riflussi della pietà umana che, opposti all'amore, ma derivanti forse inconsciamente dalla stessa causa, producono in ogni caso gli stessi effetti? E più tardi, ricordando l'insieme di tutto ciò che si è fatto per una donna, spesso ci si rende conto che gli atti ispirati dal desiderio di mostrare che si ama, di farsi amare, di conquistare dei favori, non occupano molto più spazio di quelli dovuti al bisogno umano di riparare i propri torti verso l'essere amato, per semplice dovere morale, come se non lo si amasse. «Ma in fin dei conti, che cosa avrò mai fatto?» mi chiese Albertine. Bussarono. Era il lift. La zia di Albertine, passando in carrozza davanti all'albergo, s'era fermata a vedere se la nipote per caso non fosse lì e riaccompagnarla a casa. Albertine fece rispondere che non poteva scendere, che pranzassero senza aspettarla, che non sapeva che ora sarebbe tornata. «Ma vostra zia non si arrabbierà? Figuriamoci, capirà benissimo». E così dunque, almeno in quel momento che forse non sarebbe più tornato, un colloquio con me si trovava ad essere per Albertine, grazie a un concatenarsi di circostanze, una cosa talmente importante da dover passare davanti a tutto, e alla quale, richiamandosi certo istintivamente a una giurisprudenza familiare che contemplava determinate congiunture in cui, quando era in gioco la carriera del signor Bontemps, non ci si era fermati di fronte a un viaggio, la mia amica era certa che sua zia avrebbe trovato affatto naturale vedere sacrificata l'ora del pranzo. Quell'ora lontana che passava senza di me a casa dei suoi, Albertine l'aveva fatta scivolare fino a me, me la donava. Potevo usarla a mio piacimento. Alla fine, trovai il coraggio di dire quel che m'avevano raccontato del suo genere di vita e spiegai che, malgrado il profondo disgusto ispiratomi dalle donne affette dallo stesso vizio, non me ne ero preoccupato fino a quando non m'avevano fatto il nome della sua complice. E Albertine poteva facilmente capire, innamorato com'ero di André, quale dolore ne avessi provato. Forse sarebbe stato più abile aggiungere che m'avevano nominato anche altre donne, le quali tuttavia mi erano indifferenti. Ma la brusca e terribile rivelazione di Cotard era entrata dentro di me, a straziarmi, così com'era, in blocco, senza nulla di più. E come, prima, non avrei mai concepito da solo l'idea che Albertina amasse André o almeno avesse con lei degli scambi di carezze se Cotard non m'avesse fatto notare il loro atteggiamento mentre ballavano, così non ero stato in grado di passare da quest'idea a quella, per me affatto diversa, che Albertine potesse avere con altre donne che non fossero André rapporti per i quali non si sarebbe nemmeno potuta invocare la scusante dell'affetto.